Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. C'è un personaggio seriale che negli ultimi anni è entrato nel cuore degli italiani, ma non solo, perché i suoi libri sono tradotti veramente in tanti paesi e soprattutto sono tradotti in lingua inglese, che vi assicuro è un successo per un autore italiano. Il personaggio seriale si chiama Michele Balistreri, è un commissario di polizia e il suo creatore è Roberto Costantini. Roberto Costantini ha esordito con Tu sei il male, che ha dato il via alla trilogia, la cosiddetta trilogia del male, che era Tu sei il male, Alle radici del male, Il male non dimentica. Quindi va da sé che era appunto la trilogia del male, il cui protagonista era appunto questo commissario Balistreri. Poi ha pubblicato La moglie perfetta e ora è in libreria con il quinto libro dedicato a questo insolito commissario, che si intitola Ballando nel buio, pubblicato come gli altri da Marsilio. Roberto, l'ho chiamato insolito commissario perché effettivamente il tuo Michele Balistreri, oltre ad essere entrato veramente, dicevamo, nel cuore dei lettori italiani e stranieri, è uno strano personaggio, perché è un uomo che è molto leale, è molto attaccato alla giustizia, e questo lo capiamo. Nello stesso tempo però è un uomo solitario, a volte un po' arrogante, depresso, cioè ha un carattere un po', come dire, altalenante. Com'è che te lo sei inventato per chi ancora non lo conoscesse, naturalmente? Parlando di Michele Balistreri, torno a quelle che sono le origini, quindi prima ancora di Tu sei il male, quando questo personaggio si è affacciato nella mia mente. Essendo un lettore accanito di gialli, io ho sempre visto, insomma, commissari che o erano completamente buoni o erano anche di tipi un po' più, insomma, cattivacci, alcolisti, un po' misogini, eccetera, eccetera. Però io volevo qualcosa di peggio, non di più, di peggio. E quindi, al di là delle cose che tu giustamente adesso hai detto, il fatto che lui sia un po' solitario, un po' burbero, eccetera, eccetera, però in realtà in Balistreri ci sono cose molto peggiori di queste, che sono state disegnate a tavolino da me, nel senso, io ho messo dentro Michele Balistreri alcune cose concrete per fare in modo, per fare un esperimento antropologico che fosse odiato da tutti i lettori. Non so se ci sei riuscito. No, però sapendo, perché poi non è che scrivevo, non sono un masochista, sapendo però che se avessi mantenuto l'unico elemento fermo, che è quello che tu giustamente hai evidenziato, che è quello dell'estrema lealtà, che quello è l'unica nota positiva di Balistreri, ma è una lealtà estrema, no? Che nessuno di noi ha, e quindi quella avrebbe, trattandosi di fiction e non di realtà, avrebbe sovvertito qualunque cosa avessi impunemente messo dentro Balistreri. Io ho messo dentro Balistreri cose che sono al di là veramente dei vizi che ci sono in tanti commissari. Balistreri, parliamo del primo libro, In Tu sei il male, una ragazza di 18 anni sparisce, lui dovrebbe essere in commissariato, si sta vedendo Italia-Germania del 1982, fa dire ai genitori che non è successo niente perché si vuole vedere la partita, la ragazza muore. Ora, questa, se fosse vera, è una cosa che va al di là del fatto di essere solitario o di cattivo carattere. Sì, insomma, non è proprio un buono a tutti gli effetti, mettiamolo così. È un pessimo. Sì. Già tu hai accennato a delle cose, degli elementi che ci sono sempre nei tuoi romanzi, per esempio riferimenti al calcio. In tutta la trilogia del male, ma anche negli altri romanzi, c'è sempre un legame ai mondiali di calcio, a qualche partita. Perché? Per due motivi, diversi tra loro, ma tutti e due molto utili ai libri. Il primo è l'ambientazione, nel senso che siccome molti miei libri sono ambientati in periodi passati, e quindi, insomma, Tu sei il male è ambientato nell'82 e poi nel 2006, questo libro Ballando nel buio è ambientato nel 74 e nell'86, quando devi dare a un lettore un senso di contestualizzazione immediato, in Italia purtroppo il calcio aiuta enormemente, perché quando io ti dico la sera d'Italia-Germania 3-1 dei ragazzi dell'82. Di Berzò, tu lo sai più o meno, sai con chi eri, dove eri. Sì, sì. La stessa cosa in Ballando nel buio, quando inizia l'86 Michele Balistreri è con una bella ragazza che sta guardando la televisione e vede Maradona che fa il gol di mano, il famoso mano de Dios. Più o meno tutti si ricordano quella cosa. Allora serve ad aiutare il contesto prima di tutto. E la seconda cosa, hanno sempre una funzione giallistica. Nel caso di Tu sei il male mi serviva una serata in cui la polizia era molto distratta, quindi la serata della finale dei mondiali. Nel caso di Ballando nel buio mi serviva che qualcosa che mostrasse subito la rivolta di Balistrieri verso il mondo degli anni Ottanta, perché lui quando vede Maradona segnare di mano dice: questo è un imbroglione, e non lo trova un atto eroico. No, ma poi lui così preciso, così appunto leale, nel senso che questa cosa che Maradona segna di mano ed esulta è una cosa che per lui è un imbroglio, insomma, anche se poi dopo quando vede il secondo gol di Maradona bellissimo dice: sì, questo è un genio, ma è un imbroglione. Ma è un imbroglione. Sì. Altra caratteristica dei romanzi di Roberto Costantini, lo accennavi pure tu poco fa, è il fatto che ci sono sempre due piani temporali. In questo Ballando nel buio abbiamo detto c'è il 74 e l'86. Allora, l'86 è il momento in cui avviene un omicidio. Viene ucciso Giulio Giuli, che è un deputato della Democrazia Cristiana e un ex amico di Balistrieri. E qua si apre appunto la finestra sul passato, sul 74. Perché? Perché il passato di Balistrieri c'è sempre nei tuoi romanzi, torna pezzo per pezzo: l'infanzia in Libia, l'infanzia e l'adolescenza in Libia, poi la giovinezza passata nella militanza con Ordine Nuovo. E in questo Ballando nel buio tu hai voluto mettere proprio il dito in questa piaga di Balistrieri, cioè sei andato a verificare, sei andato a raccontare che cos'era per lui anche quella militanza. Ecco, un personaggio appunto che aveva militato in Ordine Nuovo, pur poi decidendo di non andare con la versione nera, è un personaggio scomodo. Ma guarda, era uno dei tanti difetti che io volevo mettergli, no? Quando ho disegnato questo personaggio, quasi tutti i commissari di polizia sono o apolitici o di sinistra, perché è più popolare così, no? E io, volendo creare un personaggio impopolare, ho pensato che fosse meglio quello, ma del resto è molto più coerente con il carattere e la storia di Balistrieri il fatto della destra, perché essendo lui un magnifico perdente, lo spiega all'inizio di questo libro quando parla in prima persona, dice: sì, nel 74 lui è al Piper, c'è la canzone di Battisti, Il mio canto libero, tutti questi del Fuan col braccio alzato. Lui dice: sì, ma in realtà non è che stiamo qui perché crediamo veramente agli ideali di destra, stiamo qui perché tutti sono di sinistra e persino Battisti passa per essere di destra perché i critici musicali parlano solo di quelle lagne di Guccini e De Gregori, no? E questo è il clima, no? E quindi dice: io mi metto dalla parte perdente. Ecco, questa è un po' l'idea che un po' sta sempre un po' nelle cose di Balistrieri. Poi ovviamente da questa storia qui poi nascono una serie di guai che poi 12 anni dopo si collegano con una serie di morti che troviamo nell'86. Ecco, nel descrivere quel periodo storico, come hai fatto a mantenere, diciamo, non dico un equilibrio, perché tu sei un romanziere e scrivi fiction, quindi puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma come ti sei approcciato agli anni 70, l'eversione, gli attentati, Ordine Nuovo e tutto il resto? Guarda, è una giustissima domanda, perché mentre quando ho raccontato nel mio secondo libro gli anni 60 in Libia, io li ho vissuti personalmente, quindi anche emotivamente li conoscevo. Questo è stato veramente un ballo nel buio sotto tanti aspetti, perché io, pur avendo fatto l'università, tra l'altro a Roma, la Sapienza, avendo fatto ingegneria proprio in quegli anni, io credo di non essere stato, a mia memoria, neanche a un comizio, meno che mai a qualunque cosa di politico, forse anche perché a ingegneria noi studiavamo e basta, eravamo tutti già un po' con gli occhiali, un po' pelati, si studiava e basta, non c'era neanche una donna, magari se mi fossi iscritta in filosofia sarebbe andata meglio sotto tanti aspetti, insomma, no? Quindi è stato complicato, ho dovuto parlare con molta gente che quella militanza l'aveva fatta, cercare di capirne le ragioni, i motivi, e la cosa che mi è saltata più all'occhio, tralasciando i casi estremi, no? Insomma, quelli che poi hanno passato un confine che non andava attraversato, quelli che si sono limitati alla passione politica, è che poi questa era gente che faceva una vita assolutamente normale, cioè per il resto, al di là insomma delle botte coi rossi per sgomberare un liceo all'università, poi alla fine era gente che come me andava al cinema, in discoteca, sentiva la musica, cioè faceva una vita assolutamente normale. Poi quando si è sciolto Ordine Nuovo è successo qualcosa, effettivamente lì è successo qualcosa che secondo alcuni era premeditato, nel senso che chi l'ha sciolto voleva che succedesse esattamente quello per avere poi i famosi opposti estremismi eccetera eccetera, e secondo altri invece è andata così e basta. E quindi... Tu Balistrieri però sceglie di, come dire, non sceglie la via della violenza, sceglie a questo punto di mollare il colpo, ecco. Balistrieri si trova a un certo punto in questo gruppo di Ordine Nuovo sciolto insieme ad altri tre compagni, che sono tre compagni ognuno con mentalità diverse, con obiettivi diversi, tre camerati possiamo dire in questo caso più che compagni, e si rende conto che a quel punto è sul confine, cioè c'è un confine che se lo passa poi non si torna più indietro. Quando quel confine è incerto esplode la bomba di Piazza della Loggia e vedere tutti quei morti innocenti gli fa capire quello che poteva fare e quello che non poteva fare, perché nella sua idea di lealtà presa da sua madre i morti innocenti non ci stavano comunque. Molti scrittori di noir, di gialli, di thriller usano il genere per raccontare, come dire, degli spicchi della storia italiana che altrimenti non potrebbe essere raccontata perché non ci sono, diciamo, delle prove. Tu usi la fiction per raccontare la storia o no? Sì, sicuramente. Io l'ho detto quando ho parlato della trilogia del male. La trilogia del male, ma anche questi romanzi, sono un tentativo di guardare alla storia degli ultimi 60 anni d'Italia attraverso quello che io chiamo un occhio di minoranza. Cioè, l'occhio di Balistreri non è l'occhio dell'italiano medio, è un occhio diverso ovviamente, quindi vede la storia d'Italia da un'angolazione che non è quella dei libri di storia ufficiali. E quindi questo è il tentativo. Questo non implica alcun tipo di superiorità intellettuale, cioè, voglio dire, chi scrive fiction gialla senza nessuno sfondo sociale ha tutto il mio rispetto e anzi credo che si può risponda molto di più ai gusti dei lettori, nel senso che i libri più venduti in Italia sono libri, insomma, più tranquilli dei miei. In principio potremmo dire è stata la trilogia del male. Io non so se tu avevi intenzione di fermarti dopo tre libri, fatto sta che Balistreri è comparso appunto in un quarto libro e ora in questo quinto, Ballando nel buio. Cos'è? Una richiesta dei lettori o c'era tanto da raccontare ancora di Balistreri? Perché effettivamente tu apri sempre uno squarcio sul suo passato in ogni romanzo, apprendiamo sempre qualcosa di più e capiamo che è stato un passato, un'infanzia e un'adolescenza mica tanto serene. Guarda, la trilogia del male ha dentro tre gialli distinti in ciascuno dei tre libri, però ha una storia trasversale che inizia negli anni 60 e si conclude nel 2011, perché è legata alla questione della Libia, quindi all'arrivo in Libia di Gheddafi e poi ai 41 anni di Gheddafi, e si conclude con la morte di Gheddafi nel 2011, perché è un giallo storico legato a quell'evento. Io quando ho inventato Balistreri pensavo a un personaggio seriale che potesse essere utilizzato in molti libri, ma che non fosse sempre uguale a se stesso, perché quando io leggo gli altri dopo un po' mi stufo di vedere il personaggio che magari mi piace, però è sempre lo stesso. Quindi ho pensato di vederlo in diverse età della sua vita, e parte da quando aveva 13 anni nelle Radici del male fino a quando ne ha 60 e passa nel Male non dimentica o nella Moglie perfetta. Quindi ci sono tanti periodi della sua vita inesplorati, come questo di Ballando nel buio. Il periodo di Ordine Nuovo è un periodo che è accennato negli altri libri, mai stato affrontato. È vero. È il periodo degli anni Ottanta, dopo che gli succede la cosa di Tu sei il male, delle Radici del male, è un periodo pure non raccontato. Ci sono altri spazi, insomma, di racconto, perché l'importante è che il personaggio principale si muova, quindi che in qualche modo cambi e si evolva, abbia delle cose nuove che accompagnano la storia gialla del singolo libro. Questo è il modo che io preferisco. Ci sono altri spazi, quindi capiamo che insomma Balistreri non si fermerà a questo quinto romanzo, però tu come Roberto Costantini, come il suo creatore, sai già tutto, come dire, il prequel, quello che gli è successo e non ce l'hai ancora raccontato, o ti deve ancora venire in mente? No, il prequel direi che forse lo so e l'abbiamo raccontato nelle Radici del male, perché nelle Radici del male abbiamo raccontato da quando era piccolo. Quello che non so è il sequel, nel senso che non sai dove andrà a parare, insomma. Non so, perché diciamo cronologicamente Ballando nel buio si pone prima del penultimo libro, La moglie perfetta è successivo. Erano gli anni 90. Ci sarà qualcosa, esatto, La moglie perfetta invece è del 2000 e poi del 2015, cioè contemporaneo, per cui ci sarà qualche cosa nel sequel che in parte so e in parte ancora non so, perché poi a volte le cose vengono scrivendo. Grazie Roberto Costantini, ora in libreria con Ballando nel buio. L'abbiamo detto, questo è il quinto libro in cui compare il suo personaggio seriale, il commissario Michele Balistreri. In questo romanzo si va ad indagare il suo passato, soprattutto il passato in Ordine Nuovo, quindi negli anni 70. Il libro è pubblicato da Marsilio. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Il cacciatore di libri. Sempre più spesso personaggi seriali creati sulla carta arrivano in TV. È anche il caso dell'ispettore Mariella De Luca, creata dalla penna di Gilda Piersanti, una scrittrice italiana che vive da più di 20 anni a Parigi. I suoi romanzi sono scritti in francese, sono stati pubblicati prima in Francia e poi in Italia. E sempre in Francia hanno avuto un bel successo i film TV che ora arrivano anche da noi, trasmessi dal 17 ottobre sulla F, canale Sky 139, con il nome, diciamo, collettivo della serie di Stagioni Assassine. I romanzi di Gilda Piersanti, Estati Assassina, Giallo Caravaggio e l'ultimo, Roma Enigma, pubblicato nel 2017 dalla Nave di Teseo, sono tutti ambientati a Roma, città che però nella fiction TV diventa Parigi. Ma sentiamo come Gilda Piersanti ci parla della sua protagonista seriale, l'ispettore Mariella De Luca. Ho pensato a una donna estremamente moderna e la modernità consiste nella contraddizione che lei si porta dentro. È una specie di frattura che ha tra la vita personale di donna, la vita intima di donna e la sua vita professionale, nella quale lei vuole essere perfetta, cerca sempre di al massimo. Ha anche una specie di imperativo categorico di fare il meglio. Nella vita privata, invece, si scopre che ha un rapporto molto complesso con la sessualità e quindi con gli uomini. Però ha trovato una specie di modus vivendi avendo una sessualità segreta. È come se ci fosse una Mariella di giorno e una Mariella di notte. Ed è talmente vero questo che lei cambia identità quando nella sua vita privata incontra gli uomini. E ha anche deciso una volta per tutte, siccome non crede nelle storie d'amore, ha deciso una volta per tutte che incontrerà sempre un solo uomo e non lo rivedrà mai più. Solo che non si può controllare tutto e quindi un giorno, questo si vedrà nel corso degli episodi, nei libri e nei film, un giorno si innamora, suo malgrado. E qui cominciano tutte le problematiche di posso, non posso, voglio, non voglio. E questa poi si capirà perché lei ha questa specie di pessimismo totale, mentre invece ha un ottimismo della ragione per quanto riguarda il suo lavoro e la sua professione. Non appare né forte né simpatica, però ci si lega a lei proprio per questa specie di cocciutaggine, questa specie di volontà di andare fino in fondo che secondo me rappresenta proprio la donna moderna, la volontà di fare tutto, una specie anche di ossessione d'onnipotenza, potrò essere perfetta in tutto, e invece non lo è, quindi è fragile, quindi ogni tanto cade. Infatti mi sembra un po' la cartina al tornasole di molte donne 30, 40, 50enne di oggi che hanno questa mania di perfezionismo sul lavoro, di essere assolutamente perfette. Eppure nella vita professionale di Mariella ci sono appunto delle cadute, perché c'è l'errore, c'è lo sbaglio. Lei come vive questa volta incapacità di non riuscire ad arrivare subito alla risoluzione del caso? Ma forse è proprio questo che ci lega a lei, perché se fosse veramente così perfetta e non perfettibile sarebbe un po' anche al di fuori, un po' irreale. E invece lei ogni volta si rialza e a forza di errori arriva comunque alla verità. Però come arriva a questa verità? Ci arriva perché ha una capacità straordinaria di mettersi al posto dell'altro. Questa è la sua caratteristica di profiler. Non è una profiler con un diploma di profiler, ma è una profiler nell'anima. Lei vede quello che gli altri non vedono nelle persone, quindi sta attenta a tutti i piccoli dettagli che sfuggono, ma non soltanto ai dettagli un po' curiosi delle due bignè alla crema che nessuno nota e invece lei nota che mancano, manca la scatola. Lei nota soprattutto tra tutte le persone che sono implicate nel caso come testimoni, nota le piccole fragilità che fanno sì che c'è qualcosa dietro, qualcosa che non ha detto. Ed è questo che a volte la induce in errore, perché comunque tutti hanno dei segreti e quindi si tratta tutti, si comincia a guardare un po' più da vicino un testimone, una persona, è certo che si trova qualcosa dietro, ma non necessariamente quello che si vuole trovare in rapporto alla risoluzione del delitto. E quindi a volte lei prende delle cantonate per questo motivo. Però è vero pure che tra tutte queste cose dietro, prima o poi lei finisce sulla storia giusta che spiega il movente. Perché tutti i tuoi gialli sono ambientati a Roma? Sono ambientati a Roma perché Roma è la mia città abbandonata, perché ormai vivo da 30 anni a Parigi ed è una città che ho immensamente amato quando ero dentro, però ero dentro e la amavo come una città che mi sembrava di conoscere, ero dentro, era la mia geografia personale di Roma che si allargava con gli anni, le medie, il liceo, eccetera. Poi improvvisamente quando l'ho lasciata tutta la configurazione di Roma mi è apparsa diversamente, perché con la distanza effettivamente anche gli affetti prendono un'altra forma, esattamente come credo come con le persone care. Quindi l'idea di Roma è stata quella di vedere qualcosa che mi era familiare con occhi insoliti, questo binomio, insomma, di estraneo e conosciuto, che in certi casi è anche inquietante e in certi casi è eccitante. E allora perché scrivere questi libri in francese? In genere gli scrittori quando scrivono appunto recuperano la lingua madre, insomma quella che hanno appreso alla nascita, e invece tu hai deciso di scrivere in francese. Il francese è una lunga frequentazione. Quando ero a Roma in Italia era quella la lingua che amavo, perché la lingua, anche lì la lingua italiana andava da sé, era la mia, la mia formazione era italiana. Il francese e la cultura francese era l'altro, era la passione dell'altro, Parigi era l'altro. Quando poi invece mi sono spostata nella cultura francese e nello spazio francese, improvvisamente ero immersa dentro, quindi mi è venuto naturale, anche perché avevo a lungo tradotto Balzac, Verlaine, Baudelaire, quindi avevo una pratica, diciamo, della letteratura e della lingua francese. E improvvisamente mi è sembrato naturale, è venuto da sé. Veniamo alla fiction TV che in Italia è trasmessa dalla F. È una fiction in realtà che è stata realizzata in Francia, tant'è vero che Roma, l'ambientazione dei tuoi gialli, è diventata improvvisamente Parigi. Ma cos'è? La solita mania dei francesi di voler francesizzare tutto? Insomma, non riuscivano a raccontare una storia così misteriosa di crime ambientata a Roma? Sì, un po' è questo, nel senso che i francesi hanno trovato che Parigi è fantastica, quindi queste storie si possono senza problemi. Un po' è il fatto che effettivamente la televisione francese, che è la produttrice dei film, voleva qualcosa sul posto, no? Solo che gli sceneggiatori sono tutti e due di origine italiana, non solo io, anche Gian Guido Spinelli, che è il co-sceneggiatore. Quindi abbiamo messo un po' d'Italia comunque in queste sceneggiature. Per esempio in Nero Enigma effettivamente c'è l'Italia, soprattutto in Mariella, che a volte intanto è di origine italiana. Questo siamo riusciti ad ottenerlo. E nel primo film si vede questo, perché scherzano anche con lei su questa origine italiana. Perché, per esempio, mi ricordo che il commissario, quando la vede per la prima volta che lei viene dalla provincia, la porta subito in un ristorante italiano. Adesso non ricordo se nel film c'è questa, mi pare di sì, e lei dice: non è che perché sono di origine italiana devo per forza mangiare gli spaghetti. E nel primo film sempre c'è una scena in una chiesa, perché non so perché, ma noi mettevamo sempre nelle sceneggiature delle scene di chiese e ci dicevano sempre: ah, è perché siete di origine italiana, perché i francesi vedono l'Italia così. Questa era Gilda Piersanti, ora in libreria con Roma Enigma, pubblicato dalla Nave di Teseo. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che potete sempre essere aggiornati su quello che facciamo al Cacciatore di Libri seguendomi su Twitter, oppure sulla pagina ufficiale di Facebook, il Cacciatore di Libri - Radio 24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.